peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Veroni da Salpinaz. Oggi diciamo che l'attenzione, il focus è sulla Polonia. Polonia non è certo nuova a proporre personaggi di primo piano, di grande livello. Indubbiamente c'è un fervento musicale piuttosto interessante già da parecchi anni, oltretutto ha anche una tradizione jazzistica, la Polonia, che viene da lontano, sempre legata all'avanguardia, penso, non solo, ma comunque la presenza dell'avanguardia è sempre stata di primo piano. Ecco, il personaggio, cominciamo dal primo, un personaggio giovane, poco più che trentenne, che ha già però al suo attivo una lunga fila di incisioni, di collaborazioni, di lavori fatti con musicisti anche di primo piano, oltre che da musicisti polacchi. E si tratta di Veclav Zimpel. Veclav Zimpel, oltretutto, ha fatto parte per diverso tempo, probabilmente fa ancora parte, della formazione orchestrale di Vandermark, di Ken Vandermark, la Resonance. E con questa formazione, peraltro l'abbiamo anche sentito quando venne a Cormons ormai diversi anni fa, e devo dire che già allora l'avevo notato come un clarinettista di primissimo livello. E Zimpel continua ad avere collaborazioni e con informazioni anche le più diverse. Sicuramente risente di un'influenza di Ken Vandermark anche per le frequenti collaborazioni, ma poi nella sua musica, nel suo immaginario, sicuramente si avverte l'influenza dell'aspetto più classico, diciamo, legato all'avanguardia del jazz, cioè a Jimmy Jaffery e poi anche a John Carter. In questo caso questo è un disco di un paio d'anni fa, quindi ormai consolidato, però sicuramente non ha goduto di grande visibilità. Diciamo che è difficile che il materiale prodotto in Polonia riesca ad essere distribuito con molta attenzione. La formazione in questo caso è di musicisti polacchi, soprattutto alla batteria un collaboratore da tempo, Klaus Kugel. E poi dopo anche da notare il pianoforte di Zryskikov Dais, più o meno si pronuncerà così, e che si nota appunto per le sue qualità anche di inventiva, di cucitura del tessuto musicale. Le composizioni sono tutte di Zimpel, ne ascoltiamo un paio da questo disco che è stato salutato negli Stati Uniti come un lavoro importante, diciamo, ed era intitolato Stone Fog. Thank you. Thank you. Era Veclav Zimpel col suo quartetto, e in un lavoro uscito un paio d'anni fa intitolato Stone Fog. E un lavoro ben riuscito che segnala un talento considerevole e testimonia, visto che sono anche molte altre le occasioni, una vitalità artistica considerevole. Ha fatto anche lavori orchestrali, lavori in formazione cameristica, si alterna anche con composizioni più legate alla musica contemporanea. È un mondo espressivo a tutto tondo che lo vede coinvolto con linguaggi anche diversi, sempre con molta, molta partecipazione, molto entusiasmo. Altro personaggio interessante, una scoperta per quanto mi riguarda, perlomeno anche se non è giovanissima, una sassofonista, contralto, ma anche altra famiglia sax, e Angelika Nieschier, anch'essa appunto polacca, si è poi trasferita a Berlino qualche anno fa e adesso direi che lavora a livello internazionale, cioè collabora con molti artisti sia europei che americani, si sposta anche nelle varie situazioni che la possono accogliere musicalmente e possono stimolarla. E sono usciti diversi, diciamo che nell'ultimo paio d'anni sono usciti diversi lavori che la vedono protagonista, sia come leader che come co-leader, diciamo, come per esempio il caso di questo, del prossimo disco dal quale ascoltiamo alcuni brani, che la vede co-leader in un trio con Ilmar Jensson alla chitarra. Ilmar Jensson islandese chitarrista che ha soprattutto, diciamo, conosciuto per le sue collaborazioni nella downtown newyorkese con Chris Pead e Jim Black, ha fatto parte del gruppo di Jim Black, dei Tift, ed era sicuramente una dei musicisti caratterizzanti nei Tift, e quindi sempre da ascoltare con attenzione. E poi si aggiunge alla batteria musicista americano Scott McLemore. Il disco è intitolato, è uscito l'anno scorso ed è intitolato Broken Circle. Ascoltiamo diversi brani, questi sono tutti composti da Angelika Nieschier ed sono di alto livello, soprattutto si ascrivono proprio a questi linguaggi legati all'ambiente newyorkese. Ascoltiamo. Thank you. Thank you. Thank you.